Parla ai pazzi. Immagino di essere nel grande e misterioso teatro con le gradinate, che salgono prima dolcemente e poi si arrampicano sempre più rapidamente sul fianco della montagna. Io, Ipazia di Alessandria, sono sola sul proscenio, in piedi sulla pietra nera, da cui la mia voce può raggiungere ogni angolo dell'immenso semicerchio. Io non vedo bene. La mia vista, il più acuto e chiaro dei nostri sensi, è offuscata da fili sfrangiati di nebbia che lasciano appena filtrare le sagome delle migliaia di ragazze e ragazzi che occupano l'orchestra e l'immensa scalinata di pietra. Com'è possibile che la mia città, Alessandria, in questi tristi tempi di decadenza delle arti, della filosofia, dei commerci, in cui gli edifici pubblici e i teatri cadono in rovina, dove imperversano dogmi e la libera ricerca non viene tollerata, possa accogliere queste migliaia di giovani in attesa. In attesa di cosa? Forse della bellezza, forse della sapienza. Per sorte, questi giovani e queste giovani non vengono tutte dalla mia città, di certo vengono da altre terre, ma quali? Da Roma? Da Atene? O da Cartagine? O da Antiochia? Dall'Oriente, dall'antica Tebe, dalle 100 porte, da città con alti palazzi sfolgoranti di luci e grandi moltitudini per le strade, da porti affollati di grandi navi. Che cos'è il pensare? Il pensare è sperimentare la molteplicità delle sensazioni in un rapporto continuo con l'universo, soggetto ai nostri sensi, investigando con libertà e procedendo con la ragione, fino ad arrivare alla legge che ha creato il cielo e tutta la terra, alla legge che ha creato spazio e tempo in una situazione in cui non esisteva spazio e tempo. Non possiamo parlare di un punto dello spazio e di un istante prima dell'origine dell'universo, perché non esiste un punto dello spazio e un istante che non abbiano avuto origine. Le stelle, i pianeti, il sole, la terra, noi stessi siamo una possibilità che dovrà realizzarsi. Conoscenza è proposta di vita, è proposta di esperienza, è proposta dell'ignoto, è la produzione di situazioni nuove. E il sapere è reminiscenza e ripulsa dall'oblio. E solo chi ricorda diventa perfetto, perfetta, e conoscendo le leggi della perfezione porta la perfezione nella terra, come in cielo e così in terra. Da una parte esiste il mondo della terra, delle pietre, della materia non animata, di coloro che dormono un sonno profondo e ai quali e alle quali tutto accade. Dall'altra, una massa di uomini e donne che come atleti si misurano nello stadio della vita dinanzi a un pubblico attento soltanto ai propri commerci e al quotidiano. Spettatori, spettatrici che non dormono, che non gareggiano, che non commerciano al di fuori delle regole del gioco, sono filosofi e filosofe, perfetti e perfette, coloro che vedono e vogliono essere ciò che vedono. Noi diciamo che esiste il ricordo di quando camminavamo nella conoscenza e tramite i sé ognuna di noi può tornare alla conoscenza. Non soltanto chi è perfetta, ma noi tutti, accostandosi alle cose attraverso i sensi e l'arma dell'intelletto. Questo noi dobbiamo fare affinché diventi infinito quello che è nato finito, diventi cosciente quello che è incosciente, diventi certezza quella che è ancora probabilità. Le leggi sono per coloro che non le comprendono. Coloro che le comprendono sono destinate a violarle. Guai se così non fosse. Non avremmo nessuna possibilità di crescere, noi con la nostra ragione, che è espressione di una possibilità, di una tendenza ad essere. Dobbiamo osservare, verificare, confutare l'evento, quindi esistere in ogni momento, perché esistere vuol dire avere coscienza dell'istante. L'evento diventa realtà quando noi lo osserviamo e lo misuriamo con l'intelletto e lo trasformiamo a livello di coscienza. Io e voi abbiamo la responsabilità della realizzazione delle possibilità di questo mondo. Osserviamo il cosmo, varchiamo l'aria, penetriamo il cielo, osserviamo le stelle, trapassiamo i margini del mondo, facciamo svanire le fantastiche muraglie delle prime, ottave, none, decime sfere ed altre che possano essere aggiunte da vani matematici e cieco vedere di filosofi volgari. Esistono molte terre simili alla nostra, anzi terre innumerabili, non osservabili dai sensi, le quali compiono i loro circoli attorno alla propria stella come la Terra ha il suo attorno al Sole. Noi riteniamo invero che i sensi sono incapaci di valutare grandezze e distanze dei corpi celesti, opachi o luminosi che siano, e indagare sulle cause prime. Ma affermiamo altresì che non possiamo conoscere senza sperimentare. Sperimentare è vedere con la nostra ragione, costruire ipotesi e dedurre conseguenze che devono essere verificate o confutate utilizzando le osservazioni effettuate con i nostri sensi e con il sapere e gli strumenti di cui disponiamo. Il potere non può imporci le sue verità assolute basate sulle dottrine, che non devono essere sottoposte alla prova dell'intelletto. Io devo rendere comune ad altri il mio sapere. La mia scienza è vana se non vi è chi porga orecchio alle mie parole. In questi anni ho fatto scoperte sulla natura della materia, utilizzando strumenti matematici nuovi ed entrando in contatto profondamente con l'intelletto e con l'antica sapienza del cuore stesso delle forze che costituiscono le salde radici della pietra e del ferro e delle altre sostanze. Ed ora mi visualizzo ai margini di un bosco di querce. Accanto agli alberi vi è un uomo in vesti insolite, di chiara pelle, alto e aitante quanto i nostri più prestanti giovani. Tocca con le mani quasi abbracciando una quercia secolare. Mi vede, sorride e mi saluta. Benvenuta, mia signora. Ti ho atteso per molto tempo e in molti luoghi, approfondendo la mia scienza. Le foglie delle querce hanno preannunciato il tuo arrivo ed io ho l'aspirazione di essere tuo allievo per tutto il tempo che tu vorrai dedicarmi, se la tal cosa è anche nel tuo volere. Narrami del cielo e delle stelle, dell'universo in cui viviamo e dei tempi che stiamo attraversando, in cui la conoscenza viene dispersa tra incendi e violenza e con l'abbandono di luoghi antichi e sacri. Amico mio, posso parlarti del cielo e delle stelle, ma non degli astri che vediamo sospesi sopra le nostre teste, bensì dei corpi primi o atomi che sono entro la materia, sostanza delle nostre brevi vite. Vieni accanto a me, vi è erba per sederci e ascolta le mie parole in questo luogo dove le antiche e gli antichi, nella loro semplicità, ascoltavano una quercia. Dice Ipazia di Alessandria, accostati alle cose dapprima con il tuo corpo. Devi sviluppare al massimo i sensi, devi essere in grado di toccare, vedere, udire, odorare e gustare totalmente una situazione per pervenire ad un processo di identificazione con l'oggetto osservato. Indi, con lo strumento della sensazione, entriamo in noi stessi e interpretiamo la percezione fisica, ossia il rapporto tra noi e la forma. La sensazione può essere di piacere, quindi di grande sensibilità, e si avrà allora una creazione, di conseguenza una situazione femminile di accrescimento. Oppure la percezione può essere di dolore, quindi eliminazione, diminuzione, per cui si avrà una situazione maschile di selezione e di raggiungimento di un solo obiettivo. E con l'accrescimento o la diminuzione, e tramite lo strumento del sentimento, entriamo in contatto profondamente con l'ambiente, sentiamo l'ente, siamo in fase di ricezione di qualcosa che già esiste, che noi siamo in grado di comprendere alla stessa velocità della luce, in quanto costruiti e costruite con questa possibilità. Dai sensi torniamo a prima dei sensi. Sentire l'ente vuol dire essere luce, avere la visione vera. Possiamo allora noi, padroni di intelligenza, con l'astrattezza più pura, penetrare entro la superficie di questi tronchi e queste pietre, delle nostre mani, di qualsivoglia cosa sia intorno a noi e dentro di noi, e indagare. I corpi si dividono in elementi primordiali o atomi e in aggregati formati dalla coesione di tali elementi. Gli elementi primordiali permangono anche dopo la dissoluzione degli aggregati. Infinite sono la grandezza del vuoto e la quantità degli atomi, mentre la varietà delle forme di questi ultimi è inimmaginabile. Gli atomi percorrono anche gli spazi più remoti e non si esauriscono nella costituzione di un solo mondo e neppure di un numero finito di mondi, somiglianti al nostro o diversi. Di conseguenza è possibile l'esistenza di un numero infinito di mondi. Non esiste differenza tra il soggetto che percepisce e l'oggetto della percezione, in quanto ambedue sono aggregati di atomi e quindi partecipi della struttura microscopica dell'universo infinito. Gli atomi si muovono nel libero vuoto, dove esistono infiniti mondi simili a questo e dove non esiste l'alto e il basso. Dobbiamo concepire il movimento dell'oggetto osservato non come una particella che si muove nello spazio, ma come un'onda di probabilità. Ai livelli profondi della materia, gli oggetti osservati non sono solidi, ma si dissolvono in funzioni matematiche che esprimono comportamenti probabilistici o tendenze verso la realtà. Non hanno un'esistenza di per sé, hanno significato soltanto nei rapporti che intercorrono tra loro e il soggetto che vede. E non possiamo di conseguenza elaborare una teoria deterministica dell'universo, in quanto non sappiamo misurare con esattezza lo stato presente del sistema sotto esame. Non possiamo descrivere quello che avviene alle particelle atomiche tra più osservazioni consecutive. Non possiamo predire un avvenimento futuro con assoluta certezza. Io credo che le nostre vite saranno brevi, ma il nostro pensiero vivente non verrà disperso dall'ignoranza e dal potere, verrà raccolto da chi ama la conoscenza. Un giorno molte persone faranno proprie le nostre intuizioni e teorie e leggi, nonostante le nostre ricerche vengano disperse ora, le nostre biblioteche bruciate, i templi dove noi sperimentiamo le nostre visioni dell'universo saccheggiati.